arrivato il console egiziano, perché ogni tanto su queste cose si schierano anche loro, quantomeno in questa zona qua. Niente, allora ringrazio i compagni e le compagne. Non so più dove siete rimasti. Guarda, perché... direi di fare un rapido resoconto della mattinata, insomma, che è stata piena di cose, quindi se ci puoi raccontare. Sì, anche come... stati 5, 6, 7, 8, 10 episodi. Faccio una sintesi veloce. Allora, una settimana di lotta, quella esentata, non ve la so raccontare tutta, due cariche picchetti, una ha preso un lavoratore... come sempre c'è quello più ricattabile, hanno detto buttati, controllati con la macchina, ci sono per il parapiglia questa settimana. Risultato, la cooperativa si rigidisce, l'IKEA invece dice al Sicoba che sta acquistando questa avvertenza, no no, adesso li obblighiamo noi perché sono 11 milioni di euro di appalto, questa cosa va risolta. Tenete presente che qua 8 giorni di blocco dell'IKEA, 8 giorni di blocco dell'IKEA, i magazzini si sono svuotati, per cui questo è il più grosso il polo logistico, cioè è un capannone di 3 km per lato, immaginate voi stamattina a coprire 6 cancelli, che casino che era, una roba enorme. Allora succede questo, qui si arriva stamattina dopo il fatto che l'IKEA prima ha detto questo, poi invece due giorni fa che si aspettava una risposta positiva, perché anche qua il sindaco ha detto no, si fa il massimo del porto, il sindaco un merdone, scusate le parole del PD, prego. Faccia pulita come sempre, vabbè, no, è solo per evitare denunce, visto che qua ci conteniamo. Niente, parlando di cose serie, praticamente si aspettava una risposta, quantomeno di arrivare a un tavolo, poi già il prefetto e il sindaco parlavano di incontri, però gli incontri erano subito con la cooperativa dell'IKEA, dopo con CGL e CISL e UIL, perché l'IKEA sta facendo di tutto per rubare tesserati al Sicovas per mandarli al sindacato più comodo, legati tutti in area pidina, e poi il 15 novembre l'incontro con Sicovas. Ovviamente i lavoratori, che cos'è un incontro? Qua siamo una settimana in blocco, i feriti per terra, gente fermata, voi fate incontro perché il problema la risolviamo militarmente. Però praticamente siamo arrivati all'oggi, con questo appello grosso alla partecipazione, per i lavoratori di altre cooperative, della Tenitraco, dell'SDA, tutti qua del circondario, dove sono state fatte delle belle lotte anche vincenti durante quest'anno, e in parte la mattinata. Un pochettino vi ho già raccontato, la scelta di star seduti, fare blocco, non farsi passare, siamo arrivati alle prime pressioni, in qualche maniera non si voleva esagerare, abbiamo percepito questo, anche perché hanno capito la grossissima determinazione dei lavoratori, per cui spostarsi in quella maniera, una sessantina, che alla fine eravamo seduti, diventava problematico, nel senso che dovevi proprio far arrivare il sangue, eravamo tutti abbracciati uno con l'altro, le gambe uno sull'altro, hanno fatto un po' di operazioni prima un po' democratiche, hanno provato a stare, hanno strozzato qualche nostra compagna, perché per non fargli il male la prendevano per la gola, perché sai, sono tutta gente per bene, per cui bei segnacci di mani al collo per alzare, ma diciamo che non hanno voluto esagerare, come dicevamo prima, sappiamo la differenza, insomma. È arrivato il sindaco, è arrivato il capo della questura di Piacenza, ufficialmente conciliaboli, il sindaco che fa la sua bella faccia pulita, ma non li vuole risolvere con le contraddizioni, addirittura è disposto ad assumere un lavoratore a casa sua come badante, la pantomima del disgusto. Risultato, i lavoratori che sono entrati, durante la mattinata sono entrati due pullman di lavoratori, loro ne avevano organizzati tre come comitaggio organizzato, e invece sono arrivati due mezzi vuoti, e la cosa stupenda dal punto di vista politico, diciamo già forse stamattina, è che i lavoratori hanno detto no, noi siamo entrati per paura, non paura, qualcuno invece non vuole stare con la lotta dei lavoratori, tutto quello che ha detto ok, una cosa è questa, una cosa è vedere picchiare i nostri fratelli come dei cani in mezzo alla strada. E il risultato, hanno detto noi vogliamo uscire in sciopero in solidarietà con i nostri lavoratori, un colpo dal punto di vista politico e uno schiaffo lì che ha le cooperative, che è una cosa veramente che ci rende orgogliosi per questi lavoratori. Risultato, chiedono voi spostate tutti i blocchi, tenendo presente che alla fine questi erano entrati ma cambiano ancora non erano entrati, voi spostate ogni tipo di blocco e facciamo entrare, parliamo con questi qua, vediamo se si può fare. I lavoratori con i delegati sindacali loro hanno deciso ma col cazzo, cioè prima fate uscire perché l'ho detto, questo è un sequestro di persona e poi valutiamo cosa fare, anche perché parlavano di un incontro oggi pomeriggio, che era l'escamotage più intelligente per riuscire a sbloccare una situazione che sennò diventava problematica da tutti i punti di vista. E succede che invece quando ci siamo per terra sono finite le mediazioni, sono partite scudate in faccia ai lavoratori, manganellate, quando sei tutti insieme le prendi, ma quando sei seduto per terra le prendi un po', ti alzi, c'è un cazzo da fare. Alla fine ci siamo alzati 1, 2, 3, 4, 5, 6, gente che è caduta per terra, è sovrato un po' di calci, il lavoratore è stato portato, è arrivato poi l'autoambulanza e questo adesso è all'ospedale, poi raccontiamo poi di succedersi dei fatti. Risultato, ci fanno alzare, ci caricano, ci si sposta, che okay, ci si ricompatta con tutti i lavoratori inferociti a 10 metri dai cancelli, ci hanno caricato, ci hanno caricato in piedi, carica di corsa, prima carica un pochettino, di quelle che capisci non c'è il massacro ma ti devono spostare. Visto che invece non ci si spostava, invece ha cominciato a far male. Visto che ci si era organizzati, dopo ancora 20 metri ci hanno tirato un bel po' di candelotti addosso, che è una cosa non normale tirare candelotti, quindi ci sono presi i lavoratori, evidentemente volevano dare segno di spazzarci, ci si è ricompattati, ci ha ricaricato. Se tu rallentavi, giustamente per dare il senso che non c'era una fuga, ma loro volevano la fuga, di tutto questo 80, 90, 100 persone che erano davanti a quel cancello lì. Gli altri erano davanti ancora agli altri, però lì polizia non c'era, concentrato tutto su quello che era uno. Devono prendere l'intenzione di spaccare, perché era un segnale politico da dare per chi non si piegava. Praticamente ci hanno, la faccio corta, compagni, ci hanno inseguito per 2 chilometri, noi fuggire non se ne parla neanche, ti rallenti, ci arrivano addosso, manganellate in testa, chi cadeva per terra, calci, il questore che grida spazzateli, cercate di separarli, meno male perché in una rotonda c'è stato un momentino di parapiglia che la gente fuggendo si separava, invece abbiamo chiamato, si è ricompatta tutti, siamo ripartiti, ci ha ricaricato, adesso siamo tornati davanti al cancello principale, quello non di stamattina ma quello principale, c'è il presidio permanente, e siamo qua. Adesso in questo momento è arrivato il console egiziano e stiamo aspettando prospettive, stiamo aspettando come ragionarci. Loro, abbiamo mandato un bel po' di lavoratori, non abbiamo mandato noi, hanno deciso i lavoratori di andare all'ospedale, anche perché il lavoratore che è ricoverato in ospedale stava molto male, ha detto dell'autoambulanza, ma poi aveva i valori molto bassi, i valori vitali bassi. Probabilmente anche l'agitazione, qualche botta in testa più forte delle altre. Certo. E poi invece, quanto pare, su questo lavoratore se lo vogliono arrestare, l'ha sequestrato 3 mesi di soggiorno. Anche giustamente abbiamo detto, questi stanno cercando l'occasione di dare lo scontro, perché lo scontro permette, lo diceva chiaramente il questore, il primo regista lo arrestiamo, volevano quello, volevano portarci da qualcuno perché paura, terrore, separazione, perché no, con l'esperienza che ci si è fatta, l'operazione politica di terrorismo è separare chi è oggetto del licenziamento, chi è oggetto del punimento, a tutti gli altri lavoratori. L'altra mattina li chiamava uno per uno, tu non sei licenziato, vieni dentro, tu non hai avuto ancora venire dentro, dice no, sono soffermo il mio collega. Adesso quello che vedo è che i lavoratori sono, noi siamo proprio davanti ai cancelli, c'è il cancello in rete, i lavoratori sono tutti fuori, non vanno dentro a lavorare, però fuori non li fanno uscire. Adesso è arrivato il console egiziano, come già è successo a Piacenza durante la lotta dell'attraco, quella dell'anno scorso, è stata una grandissima, sono tutti qua quei lavoratori lì. Insomma, stanno molto bene. Il problema è darsi prospettive politiche, perché approfitto per dire anche ai compagni che questo lavoro ormai da anni che si è intrapreso, intanto ha permesso alle strutture territoriali come la nostra di centrare un loro ruolo, che ormai negli anni anche queste cose qua diventa permeato di tante cazzali, dalla finta socialità all'antifascismo una volta all'anno, invece ha ricentrato l'obiettivo primario, che è la contraddizione primaria, capitale lavoro. E sto percorso qua si sta arrivando con una serie di assemblee territoriali a un incontro di tutti i lavoratori della cooperazione, il che vuol dire che al di là dell'aspetto sindacale, e non dico puramente che mi sarebbe porre un limite a questo tipo di ragionamento, quando invece è fondamentale la presenza del sindacalismo di base che si coba all'interno di queste lotte, è che come compagni ti stai ponendo una prospettiva, che è quella di costruire l'allargamento della rete, di generalizzazione di questa esperienza, tant'è che su questa cosa qua voi ci chiamate come radio, ma ci chiamano da Genova, da Firenze, tante realtà, universitari, operai, di lavoratori, e stiamo girando per tutta Italia per confronti con tanti compagni su questa questione, e crediamo che quell'appuntamento diventi anche il darsi una prospettiva a livello nazionale, insomma, come movimento anticapitalista, politico, sindacale, ma sicuramente all'interno dei quali i compagni, non come piccoli elementi di soggettività di uno più uno più uno, che io credo non farli chiedere un cazzo a nessuno, soprattutto chi sta all'interno dei processi reali vede come elementi dogmatici, ma a partire dalla condizione primaria, qua la gente incazzata c'è, e darci coscienza. I lavoratori all'inizio della mattinata stamattina parlavano che qua non esiste democrazia, poi vedere che poi si prendono coscienza a quella che è la situazione, ed è un processo lungo, perché lo sciopero di stamattina non è lo sciopero, sono una settimana di sciopero ed è prima mesi di confronto, di assemblee con i lavoratori, di noi che come struttura esterna partecipiamo, seguiamo, verifichiamo, senza mettere cappello a nessuno. Però inserendoci una serie di ragionamenti, no? Altrimenti l'ipotesi di una forma di risposta politica rimane molto tradunistica, cioè ti occupi solo di vertenzialità, noi non siamo sindacato, non sarebbe da noi, voglio dire, però ci possono essere questi limiti, questo limite non c'è, c'è la capacità di rompere, questa unità deve uscire dall'ambito del cooperativo, questo tipo di esperienza, sapersi colare tante altre realtà. Però già solo negli ultimi 15 giorni ho avuto un sacco di contatti, compagni in più che ha sentito di questa cosa che sta girando su chi si occupa di contraddizioni reali, e questa cosa sta prendendo piede, inviteremo tutti i compagni, ve lo faremo sapere che sarà un appuntamento importante, forse si fa a Milano, forse a Padova, forse a Bologna. Vanno preparate con calma, un piedino alla volta funziona anche qua, compagni, con scudo la finisco perché mi sto sicuramente tediando, e anche qua la capacità di non farsi bruciare, loro oggi era chiaro, volevano lo sconto per spazzarci, per non farci stare più davanti ai cancelli, hanno ceduto e adesso basta, basta, ci ricompattiamo tutti, siamo arrivati qua e qua siamo circondati in questa piazza degli sbirri, non ci fanno neanche andare a prendere le macchine che sono 3 chilometri più l'altro cancello, proprio una volta si va e ce le si piglia, però qua ci devi rimanere, cioè tu la lotta devi vincere qua, non la vinci su un terreno solo politico generale, vinci sul terreno politico generale se la vinci anche sulla capacità di dare risposte ai lavoratori, dagli auto-organizzazione, dagli coscienza, dagli capacità di rapporto. Il fatto di vedere qua delegati sindacali immigrati che arrivano dopo 2 anni di lotta in altre cooperative è per noi un aspetto qualitativo incredibile, capaci di dirigere la piazza, di stare insieme, di gestire la situazione, capire dove accelerare e dove fermarsi, insomma sono... È il quotidiano che ti dà anche la capacità di capire che esiste una possibilità reale, ufficialmente, come classe, di mettersi, di mettere in discussione e riappropriarsi del proprio futuro. E io ti ringrazio. Aspetta, scusami, finisco velocissimamente, domani mattina qua il presidio continua, adesso un po' di lavoratori sono andati lì all'ospedale, domani mattina loro si trovano qua davanti ancora per gestire il rapporto con gli altri lavoratori, il presidio non blocca, e pomeriggio ci sarà almeno un grosso appuntamento in un Ikea, forse quello di San Giuliano, ma stiamo verificando, dove c'è l'appuntamento per tutti, come abbiamo fatto già anche sabato scorso. L'invito l'ho girato a tutti e domani più Ikea si copre a livello nazionale solidarietà, più messaggi capisce che l'Ikea la faccia non ce la vuole troppo mettere, insomma. Ecco Elio, 30 secondi ancora per dire, anche negli altri stabilimenti Ikea in Italia si sono verificate iniziative di solidarietà, insomma, o comunque qualcosa si muove anche lì, o per ora è specifico, diciamo, di Piacenza e anche di Milano questo tipo di lotta? Adesso devi scindere, qua è il polo logistico, più grosso polo logistico, per cui lì ci sono solo i negozi, non ci sono forse magazzini, però sono solo negozi, qua è il polo logistico centrale. È partito l'appello, tutti i compagni della realtà si rivolgeranno a, se c'è contatto con i lavoratori. Ancora non è partita quella cosa stupenda che c'è stata per Piacenza con l'attracco, che una volta bloccato l'attracco qua, si è bloccata qua, poi si è bloccata a Modena, poi si è bloccata a Bologna, è stata bloccata anche in Veneto, perché sono le cose reali, questa è stata l'esperienza positiva. Ancora sull'IKEA sto meccanismo non, perché una cosa è il lavoratore cooperativo, una cosa ancora forse è il lavoratore che lavora nel grande magazzino, bisogna fargli arrivare la notizia, questo sta ai compagni, mettersi davanti ai negozi, c'è questo volantino che è stato girato. È morto Rauti, che bella notizia. È morto la merda, sì, è arrivata adesso la notizia. Niente, perché il problema è un percorso da avviare, anche all'interno di quel ragionamento che facevamo, di costruire un'alternativa che non sia solo sindacale o parziale o vertenziale, ma sia politica e sia posizione di classe, insomma, questa è la cosa. Poi c'è